America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. It's 24 past the hour and we have some breaking news for you. Two U.S. officials now confirm President Trump will recognize Jerusalem as the capital of Israel tomorrow. Avete sentito? Beh, questa è una notizia che circola ormai da qualche giorno. Oggi Donald Trump annuncerà il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele. E vi dicevo, l'annuncio potrebbe arrivare da un momento all'altro, nella tarda mattinata ora americana e quindi il tardo pomeriggio ora italiana. Il passaggio dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, Tel Aviv, dove ci sono tutte le ambasciate. Gerusalemme è considerata la capitale di tutte le religioni monoteistiche, quella cristiana, quella ebraica, quella musulmana naturalmente, e dunque questo passaggio, che era stato evitato per questioni diplomatiche, per non creare tensioni nel momento in cui si cercava un dialogo per la pace, ha già creato molte tensioni. Trump ha parlato con Mahmoud Abbas, gli ha comunicato la sua decisione, l'ha comunicata anche al primo ministro israeliano Netanyahu, al re di Giordania Abdullah II. Ecco, tutti hanno avvertito Trump che le conseguenze di questa sua decisione potranno essere pericolose, soprattutto per il processo di pace che sembrava prendere forma con l'aiuto dell'Arabia Saudita, con l'aiuto e l'intermediazione del genero di Donald Trump, Jared Kushner. Vi dicevo, le reazioni un po' a tutto campo sono state molto dure. Per esempio, il leader turco Erdogan ha già dichiarato che potrebbe rompere addirittura le relazioni con Israele nel caso gli Stati Uniti confermeranno questo passaggio. Ma Trump non ha fatto notizia soltanto con questa decisione di politica internazionale, che vi dicevo sarà ufficializzata quasi sicuramente oggi, ma anche con una decisione politica di natura interna, perché dopo aver dato il suo appoggio al controverso candidato repubblicano per il Senato dell'Alabama, Roy Moore, che sappiamo essere accusato di essere stato un pedofilo, il partito lo ha seguito, il partito repubblicano a livello funzionariale, a livello della dirigenza del partito, ha dato il suo appoggio a Roy Moore. Ecco, questa è una svolta non da poco, perché molti senatori, deputati repubblicani alla Camera o al Senato hanno già preso le distanze da Moore e dunque finirà che automaticamente, un po' come se prendessero le distanze anche dal loro partito, che però ha chiarito e ha specificato che in situazioni di questo genere segue la leadership del suo presidente e dunque di Donald Trump. Qual è il problema? Beh, il problema è che i repubblicani rischiano molto perché saranno attaccati come il partito, soprattutto nel momento in cui un deputato democratico nero molto anziano, anzi il più anziano deputato in Parlamento, Converse, ha deciso di dare le dimissioni, ecco che il Partito Repubblicano invece chiude un occhio e soprattutto lo chiude su un candidato della destra cristiana religiosa che ha commesso, devo dire, delle violazioni non soltanto con persone con cui non avrebbe dovuto avere dei rapporti sessuali, ma addirittura violando quella barriera insuperabile, e cioè quella di avere del sesso, come sembra sia successo nel suo caso, con una ragazza 14enne. Il rischio per i repubblicani è che potrebbero pagare questa decisione alle prossime elezioni chiave del 2018, ma nel frattempo, beh, sanno che hanno bisogno di un seggio chiave al Senato. Per esempio, hanno potuto passare alla riforma fiscale per un voto. Se non avessero avuto questo voto, avrebbero avuto un problema su quella riforma. Dunque, la ragione politica prevale in questo caso sulla ragione morale. Altra notizia, la Deutsche Bank dovrà dare documenti che dovrebbero fare chiarezza su certe transazioni finanziarie della famiglia Trump. Il sospetto è che ci siano stati dei passaggi di quattrini anche attraverso canali russi. Ecco, queste sono le notizie con cui l'America questa mattina si è svegliata, però fra tutte la più importante secondo me è una notizia fuori dalla politica ed è di nuovo una notizia che ha a che fare col mondo degli affari. Vi ho parlato ieri della fusione CVS-Aetna, cioè della terza più importante compagnia di assicurazione con un colosso della distribuzione al consumo di prodotti e servizi farmaceutici. Beh, oggi vi racconterò questa storia. In fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sbobbano sotto quel sole svengono, mentre col nuoto ce la smasciamo in fondo al... Avrete riconosciuto un classico, un cartone animato di Walt Disney. Ebbene, proprio la Walt Disney e la 20th Century Fox sono vicini, secondo autorevoli indiscrezioni, a una fusione. Vi do un po' il contesto di questa situazione. Intanto la Walt Disney, la conoscete tutti, da Topolino ai film, ai cartoni animati, è uno dei grandi colossi dell'Infocom, della produzione di content negli Stati Uniti d'America. La 20th Century Fox invece appartiene alla galassia della News Corp, della famiglia Murdoch, di Rupert Murdoch. Ecco, e arriviamo al valore di questa operazione, perché è un'operazione da 60 miliardi di dollari. Attenzione, quella di ieri, di cui vi parlavo ieri, 69 miliardi di dollari, quella di oggi 60 miliardi di dollari, quella di cui vi parlavo la settimana scorsa, cioè la fusione Time Warner AT&T, 85 miliardi di dollari. Sono delle cifre colossali che stanno in qualche modo rivoluzionando il mondo degli affari americano, gli schieramenti competitivi attraverso cui le grandi aziende, le grandi multinazionali possono condurre il loro business. Nel pacchetto 20th Century Fox ci sono anche alcune emittenti via cavo americane, però Fox News, il network broadcast Fox e quello sportivo FS1 non sarebbero in vendita. Ma questi sono dettagli, come vi dicevo. La storia di fondo è che di nuovo l'America si porta in avanti, lo ripeto sempre alla conclusione della mia trasmissione, che questa americana è pur sempre in un modo o nell'altro una nuova frontiera. Ne abbiamo la conferma da questa decisione di questa famiglia Murdoch di cedere una buona parte dei propri asset, di scambiarli con azioni Disney, ed ecco che saranno loro a diventare azionisti importanti, ma non determinanti, della galassia Disney, che a sua volta è colossale. Dunque il mondo dell'infocom, del content, domina, perché se pensiamo alla fusione fra Time Warner ed AT&T, il punto centrale riguardava proprio il content, lo riguarda di nuovo in questo caso. Insomma, una riforma fiscale, molte fusioni, un presidente che provocatoriamente vuole portare l'ambasciata americana a Gerusalemme, rappresentano insieme una serie di piccole, importanti rivoluzioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho detto, tante piccole rivoluzioni, e dunque di Tracy Chapman, Talking About Revolution. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Hungry people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!